Io penso sia importante che domani, che la giornata poi del 10° anniversario della rivoluzione del Rojava, è dare un segnale in tutte le città dove è possibile di vicinanza e di solidarietà alle compagne e compagni curdi, in particolar modo in questo momento dove Erdogan si prepara a invadere per l'ennesima volta parte del territorio che loro hanno liberato prima dal governo Assad nel 2012 e dopo dalle truppe dell'ISIS. In queste settimane abbiamo visto diverse cose, come ad esempio il sacrificio dei curdi da parte di Svezia e Finlandia per entrare nella NATO. Sì, questa è una delle cose più vergognose e ipocrite dell'Europa, non solo dell'Europa, che da una parte si è avvalsa delle forze democratiche siriane per combattere contro l'ISIS, dall'altra oggi li abbandona su richiesta di Erdogan, che ha ricattato la NATO per l'ingresso dei due paesi nel nord Europa. Come dicono loro stessi, è legittimo, lo dicono, che chiunque voglia fare richiesta di entrare in altre organizzazioni, però non vedono perché loro devono pagarne le conseguenze, anche con dinamiche veramente vergognose, con la richiesta di estradizione di persone che vivono ormai da tantissimi anni in quei due paesi. Dicono di persone che sono esiliate e che hanno ottenuto magari il diritto di rifugiati politici per quello che hanno subito in Turchia in questi anni. A proposito del PKK, ci sono anche delle pronunce di tribunali europei che chiedono di rimuovere questo partito dalla lista di quelli considerati terroristi, ma tutto ciò ancora non avviene. Come dire, sono interessi internazionali per tenere buono Erdogan? Sì, riteniamo di sì, perché è una cosa assurda che un'organizzazione che combatte per la libertà del proprio territorio, che comunque ha fatto anche delle scelte molto radicali, diverse, non richiede più neanche uno Stato indipendente, ma gli Stati confederali, dove tutte le soggettività possono avere gli stessi diritti. Dunque oggi PKK non chiede più di fondare uno Stato curdo indipendente, ma col percorso del confederalismo democratico, sia in Siria ma anche in Turchia, chiederebbe solo dunque di avere dei processi di pace, di avere tutti i diritti che hanno anche gli altri popoli che vivono in quelle nazioni, e di non di essere massacrati da Erdogan o in Iran o comunque negli altri stati dove il popolo curdo, che ricordiamo che è uno dei popoli più numerosi nel Medio Oriente, si parla di più di 40 milioni di persone, che è diviso in 4-5 stati. Dunque questa cosa del PKK è una vergogna, già dei tribunali belgi e anche europei hanno sancito che non dovrebbe essere considerato un gruppo terroristico, però purtroppo non viene tolto dalle liste neanche della comunità europea. Su questo ricordo c'è una campagna di raccolta firme da parte del movimento curdo per fare una richiesta perché venga tolto. Una cosa che volevo segnalare vergognosa, che nell'ultima manifestazione di Bologna, la polizia, la Digos, ha cercato di fermare e denunciato un compagno di Mantova che era venuto alla manifestazione regionale in quanto aveva una bandiera del PKK, cosa mai avvenuta in Italia in questi anni. Però anche vediamo che da questo le pressioni che il governo turco riesce a fare anche sugli organi istituzionali italiani, e penso che sia inaccettabile che noi ci postiamo a un dittatore anche su questo, però penso che sia simbolico di quello che ha fatto la Digos nell'ultima manifestazione dell'11 giugno. Ti chiedo allora di ricordare l'appuntamento di domani. L'appuntamento domani 18:30 in Piazza Nettuno per un presidio in solidarietà e anche per la ricorrenza dei 10 anni dell'inizio della rivoluzione del Rojava.